speciale. Questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da Giappone. E quando sei alla frutta, la città è distrutta. Il telegiornale che ti fa imparare. Il telegiornale che ti sa insegnare. Organizza rivolte e bracciantini. Il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi. TG1, TG2, TG speciale. Niente cinema stasera, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da New York. E quando c'è la frutta, la trasmissione si è interrotta. Il telegiornale che ti fa vedere. Il telegiornale che ti fa invecchiare. Il telegiornale entra dentro la notizia. Ma almeno rimane il pregio dell'informazione. E tra una smentita e l'altra un sorriso ministeriale ci fa capire che le cose non vanno poi troppo male. Il telegiornale è così spettacolare. Il telegiornale è così obiettivamente imparziale. Sì, ok.